la muntanya, più de 100 anni fa. Ci steven i briganti per un sogno di libertà. Allora per la macchia steven alla casa segna. Di capa massa foca pace, guerra con la Mattei. Luna erano soldato contadino, che solo per fama diventare un assassino. C'esteva pure chi combatteva per il re, e chi per la terra che n'aveva potuta avere. Stamattina la grigliata di Piemonte si è presentata a tutte con l'anima gioconda. Don Peppe Garibaldi ce voleva libera, invece un padrone è nava d'arriva. A 200 anni appresso c'è gamba per pasfella, ma non brigantanti. E questa la dedichiamo in particolare alla brigantessa di Fruss Valley, Chicco Chicco Chicco. E allora adesso andiamo avanti con Mamma Tron. La canzone che ascolteremo dopo è Fuoco di Raggia di Carmen Consoli con Goran Bregovic del 2007. Qui vediamo il dialetto catanese della cantantessa Carmen Consoli unirsi alla musica balcanica di Goran Bregovic, quindi due mondi totalmente diversi che si uniscono in una canzone, appunto Fuoco di Raggia, no? Fuoco di rabbia, di passione, una passione che non è solamente rabbia, ma è qualcosa che abbiamo dentro un po' tutti e tutte, soprattutto chi è nato sotto al vulcano come Carmen Consoli e non solo, e quindi una passione incontrollabile, diciamo, fuoco di raggia. Dicevi che l'amore mio è galera. Si incatena d'onda stera ne vai, non fa pettinaro, ne pete spetto, poco di raggia lo petto. Raggia, allora dimmi tu, dimmi, dimmi come. Fossi picchi, avi la vestisci da caccia bamba maledetta. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come. Fossi, fossi picchi, dormini vendo furia e già le cosce ma varia. Oh, batea, paso le mie giornate sola dentro lo letto, abbrocio io un lucorito e martoriato, oh, intrubolato vita di far malucciato, oh. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fosse, fosse picchi, ave la vestita da già mamma maledetta. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fosse, fosse picchi, dimmi. Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come fosse, fosse perché. E continuiamo sempre in Sicilia con un'altra canzone che ha tantissimi anni, come Malarazza. Malarazza parla proprio, una canzone che dice di, che bisogna lottare, bisogna prendere, no, il bastone, tirare fuori i denti e non rimanere fermi su se stessi. Diciamo, le canzoni come queste siciliane di un certo periodo sono state ricantate negli anni da moltissimi artisti e artiste. Quella che sentiremo oggi è la versione di Roy Paci, che col progetto Gli Aretusca ha cantato tantissime canzoni siciliane, tra le quali Vittina Crozza, Ciuri Ciuri, di, insomma, di periodi e temi differenti. Quella appunto che sentiremo oggi è Malarazza, una versione un po' particolare, nuova e un po' più allegra, ci dà un po' lo spirito per lottare. Ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Un servo tempo fa di già una piazza pregava a Cristo un croce e ci dicia: Cristo come maggiore di sapà tira fuori le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Ricordati che ogni persona ha una sua dignità, sogni e emozioni che la vita ci dà, c'è chi ancora per il potere ha venduto l'anima, disposto a distruggere ogni briciola di verità. C'è chi dice non mi va, non mi va, non mi va, se c'è chi domina, sgomina, insulta la mia umanità. Guerra chiama guerra, lotto per la mia identità, nonostante troppi troppi siano le difficoltà. Stato di calamità, suddito di società, schierato dalla realtà, schierato in cattività, contro la meschinità, punto anche a tutto si sa. Non credo all'immunità di chi sta sopra a guardare, è la mia gente che dà menzogne e tranquillità solo per chi sta di là. Di questo bel varietà, presidente Maragia, oggi di servilità, pagherete tutto e spero non nell'aldilà. Chi è Cristo ma rispondi dalla croce, forse si sono spezzati. Giustizia si la fazza, tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Tira fuori le lenti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti. E ora parleremo di una canzone che ci ricorda di quando eravamo migranti. Questa la dedichiamo a chi se ne va pure se dice che sono una fricchettona, a chi rimane e a chi è recluso nei CIE, su cui potete trovare aggiornamenti sia su, da questa radio, su Silenzio Assordante, il programma che raccoglie appunto testimonianze dai CIE, sia su Macerie e Noi Non Siamo Complici, online. Ancora notte, calassamma massaria, pigliamo traino e partimmo per un lungo viaggio. Stavamo andando all'America. Ci mettemmo più di un giorno per arrivare finalmente in una città grande. Grandissima, aveva un sacco di case bianche, tutto attaccato sopra una montagna, che scendevano fino al mare. Eravamo arrivati a Napoli, era là che dovevamo prendere la nave, e la cercammo la nave. Girammo in mezzo ai vicoli di questa città per più di due ore. E poi la trovammo finalmente, arrivammo al porto e la vedemmo la nave, quanto era grande sta nave, grande, grandissima, più di un palazzo, ma che dico, era quanto un paese, e c'era tanta gente che aspettava, e iniziarono a salire, il capitano fischiò, e salirono i signori, pieni di valigie, salirono, e tanti facchini che portavano ste valigie, e poi toccò a noi, finalmente toccò a noi, e salimmo contenti, salimmo, che dico, noi scendemmo, la camerata nostra era giù, era sotto il mare, al posto delle finestre, c'erano gli oblò e si vedeva l'acqua del mare, però non ce ne importava, eravamo felici perché andavamo all'America, e la nave partì, ci trovammo tutto d'un tratto in mezzo al mare, e io ero curioso e salivo ogni tanto su al terzo piano a spiare i signori, quello che facevano i signori. E li vedevo lì che mangiavano ogni ben di Dio, con i camerieri, con i guanti bianchi che li servivano. E c'era la musica, c'era l'orchestra. E poi scendevo giù, scendevo dagli amici a mangiare pane e cipolla, pane e formaggio. Però eravamo felici, stavamo andando all'America. Ci chiamarono tutti quanti su, finalmente, salimmo tutti al terzo piano e la vedemmo l'America, tanti palazzi alti, altissimi. E allora, allora ci spiegammo perché le chiamavano grattacielo. Oh, non toccavano veramente il cielo, anzi, qualcuno stava dentro le nuvole. E poi scendemmo sul suolo dell'America. E dopo due giorni già si lavorava. E il venerdì arrivò il padrone coi dollari, ci pagò coi dollari. E sabato a mangiare carne, finalmente anche noi a mangiare carne. E continuò così per tanto tempo, carne tutti i giorni, non ci mancava niente. E il sabato era festa, tutta Brooklyn, e andavamo a ballare coi paesani nostri, ballavamo a tarantella, la musica era bella, ma la gente era triste, la musica era bella, ma noi eravamo tristi. E allora decisi, una delle sere a Brooklyn, decisi di tornarmene, e me ne tornai al paese mio, alla masseria mia, e li trovai tutti quanti. Sì, c'erano tutti quanti, gli amici, i parenti, la fidanzata, grande festa. C'era la stessa musica del Brooklyn, ma la gente era allegra, eravamo allegri. Non c'era la carne, però ridevamo tutti. E fu allora che anch'io per la prima volta mi sentì finalmente padrone di niente, ma padrone di niente, ma padrone di niente, ma padrone. E continuiamo con la Campania. Adesso parliamo di un artista insavitabile. Lui ha iniziato negli anni '80 a suonare come sassofonista con Pino Daniele e poi ha continuato negli anni anche come artista solista e ha lavorato anche con i Bottari. Sono questi suonatori, suonano le botti di vino. E diciamo unire sia la musica antica napoletana a suoni nuovi, a suoni africani. E, quella che sentiremo oggi è Aised, proprio una canzone ovviamente in dialetto e che parla proprio della fatica, diciamo, di vivere anche da migrante in un paese che non è il proprio, in cui si lavora troppo e insomma c'è chi proprio le sue parole. Dicono che c'è chi ha troppo e chi non ha nulla. Quindi quella che ascolteremo adesso è Aised e viene da un album del 1996 di Enzo Avitabile. Aprile 1868. Brigante Bernardo Colavattei, brigante delle Mainarde, viene arrestato in carcere di Cassino, dove morirà senza mai più rivedere le verdi montagne del suo paese. Fight. che c'è buona marea. E tu fai sempre posto il numero per non ne sapere bene. Andiamo c'è coppori, ma che por mi. Andiamo c'è coppori, ma che por mi. E tu sangue cingolo ci prema quando pensa a te. A piccia luce non si vede niente, ogni su cruciami a smerzi. E una voce che chiama, riesce porca a me. A pigliare per un indorcio, faccio un loro minù. Ma chi rinda vita un scelia, Giuliano Sciuri. Piaccia riveneva fora, ma fanno un buco porì. Ogni giorno tu e cammina, cammanana cagnamma. Yamma yamma kamo chan yam, amma namma nse. Yamma nse gopori, mad boru mi. Yamma nse gopori. Yamma nse gopori, mad boru mi. Yamma nse gopori. Yamma nse gopori, mad boru mi. Yamma nse gopori. E adesso, come ogni puntata da questo giovedì in poi, Mamma Trona avrà un momento con l'ospite della puntata. D'onore, d'onore. E d'opinione anche. E questa puntata c'è direttamente da Chianga Town, la terra dei sassi, da Matera, ci canterà Bim Bim Bam. Uè mamma camo bene, bim bim bam, uè mamma camo bene. Bim bim bom, picchio la seggio, fallo trasire. Bim bim bom, picchio la seggio, fallo trasire. Bim bim bom, uè mamma che è trasuta. Bim bim bom, uè mamma che è trasuta. Bim bim bom, picchio la seggio, fallo sottetere. Bim bim bom, picchio la seggio, fallo sottetere. Bim bim bom. Oh, e questo è un po' lo spirito di Mamma Trona. Ma allora, abbiamo detto, ogni giovedì ci sarà un tema differente. Quello di oggi, mezzogiorno a luna. Al mezzogiorno a luna, quello di oggi era il sud e l'abbiamo abbastanza sviscerato. Ma quale sarà quello della settimana prossima? Il prossimo sarà l'autoerotismo, perché a Mamma Trona piace fare l'amore con sé. Una masturbazione di gruppo in sala.